Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17:06 minuti. Buonasera da Deborah Rosciani, bentrovati al consueto appuntamento serale con l'informazione economico-finanziaria Focus Economia. 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri messaggi che come ogni giorno inevitabilmente verteranno sui principali temi che affronteremo in questa puntata. Allora, frena la crescita dell'area euro, in Italia recessione tecnica, queste le principali indicazioni fornite oggi dalla revisione delle stime di crescita per l'Eurozona formulata appunto dalla Commissione europea nelle previsioni d'autunno. Non è che emergano molte novità rispetto a quello che ci si poteva aspettare, ma il quadro è preoccupante. Il 2009 sarà un anno molto difficile. La Commissione europea prevede per il 2009 8 paesi dell'Eurozona in stagnazione, 5 in recessione. La consolazione è che almeno per quello che riguarda il nostro paese il 2009 è visto in stagnazione, non in recessione, ma sappiamo bene che tra l'altro il confine fra le due situazioni è molto labile, per cui tra l'altro proprio nei mesi in cui i massimi organismi internazionali non fanno che rivedere al ribasso le previsioni appunto sulla crescita, chissà che nel 2009 poi per chi viene prevista una situazione non del tutto seria, quindi non una situazione di recessione, non cambino di nuovo le previsioni. Insomma, siamo abituati anche a questo e a ben altro da molti mesi a questa parte. Questo sarà il tema che affronteremo in apertura a Focus Economia, tra l'altro commentando questi dati con un professore, lo sentiremo tra poco, con l'economista Pietro Busetta, che sta coordinando a Palermo le giornate dell'economia del Mezzogiorno, una manifestazione che in qualche modo vuole anche un po' essere la risposta del Sud al Festival dell'Economia di Trento che si svolge ogni anno in giugno. Cercheremo di capire quali sono anche le ricette per la reazione rispetto alla crisi dell'economia del Mezzogiorno, che indubbiamente possiamo ben immaginare possa essere in tutta l'economia italiana la più penalizzata, quindi quell'area che ne risente un po' di più. Parleremo poi di borsa. Oggi è una giornata complessivamente positiva, anche se c'è stata un po' di incertezza poco fa, soprattutto nella seconda parte della mattinata, proprio in concomitanza con la divulgazione della revisione delle stime di crescita da parte della Commissione europea. Comunque la situazione volge al positivo in vista della chiusura delle contrattazioni europee, ma è chiaro, la settimana si apre tra l'altro dopo la chiusura invece di una delle peggiori settimane sui mercati finanziari, e anche il mese di ottobre insomma è stato archiviato come uno dei peggiori della storia per quello che riguarda i mercati finanziari, per cui oggi tutto sommato questo rimbalzino ce lo attendevamo, questo consolidamento insomma di un trend a rialzo ce lo aspettavamo, mentre per quello che riguarda Wall Street adesso vedo una situazione contrastata, ma insomma anche il mercato americano probabilmente non avrà un movimento più accentuato rispetto a quello che vediamo oggi, almeno fino a quando non conoscerà l'esito delle elezioni, e quindi insomma mercoledì potrà essere una giornata con una tendenza più decisa per i mercati americani. Per quello che riguarda invece l'Eurozona, l'appuntamento centrale ovviamente anche in Europa si guarderà l'esito elettorale americano, ma l'appuntamento fondamentale di questa settimana per l'economia dell'Eurozona è sicuramente quello di giovedì con la Banca Centrale Europea, che ormai è dato assolutamente per scontato, opererà una riduzione del costo del denaro, una riduzione dei tassi di interesse nell'Eurozona. Si tratta di capire di che entità sarà questa riduzione, è abbastanza probabile che possa essere di almeno mezzo punto percentuale, c'è chi spera in qualcosa di un po' più consistente, almeno un punto, per poi ridurre di nuovo di un punto almeno entro la fine dell'anno, ma insomma ancora siamo nell'ordine di tutte le previsioni, mezzo punto viene dato assolutamente per scontato almeno in questo meeting di giovedì. Poi di che cosa parleremo a Focus Economia? Ovviamente se l'economia nell'Eurozona ristagna, che cosa fanno? Le imprese vanno a cercare altre opportunità altrove, e vi parleremo di come si sta organizzando in queste ore, è ormai partita la missione in Vietnam organizzata da Confindustria, dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dall'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, quindi cercheremo di capire anche qual è l'obiettivo di questa nuova missione dopo le altre già organizzate negli ultimi anni in India e in Cina. La prossima sarà in Israele, per cui insomma si cerca di esplorare aree con una crescita interessante per dare nuove opportunità alle imprese italiane. E poi parleremo invece di un altro settore che se la passa molto male. Sarà il 2009 un anno nero per il quadro automobilistico, per il settore automobilistico. Avremo alle 18 i dati sulle immatricolazioni in Italia per il mese di ottobre, si prevede un dato molto negativo. Oggi abbiamo avuto i dati anche per quello che riguarda il mercato francese, che tutto sommato ha avuto un calo ragionevole, meno 7%, se si compara con quello della Spagna, che invece ha avuto un nuovo crollo delle vendite di automobili, oltre il 40% appunto di ribasso delle immatricolazioni, di perdita di immatricolazione. Insomma, tutto questo è il quadro che commenteremo quest'oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Parleremo anche naturalmente di Alitalia. Adesso le altre notizie in breve. Con la quale apriamo ogni giorno è quella che abbiamo scelto anche per aprire anche oggi: la tendenza del prezzo del petrolio a New York ha aperto a $65.84 al barile, quindi insomma una tendenza al ribasso, segnando un calo rispetto alla chiusura di venerdì scorso sempre a New York del 2,9%. Come se la passano le compagnie aeree, come stanno ancora reagendo rispetto alle tendenze del prezzo del petrolio? Ryanair chiude il secondo trimestre con un utile in calo del 31% a causa dell'aumento dei costi per il carburante e il calo delle tariffe. L'utile netto della compagnia aerea è così sceso a 185,8 milioni di euro contro i quasi 270 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. All'Italia, ennesima settimana chiave nella vicenda della compagnia di bandiera italiana. Il commissario straordinario Augusto Fantozzi infatti comincerà l'esame dell'offerta della CAI, la compagnia aerea italiana sottoscritta dai sindacati confederali e dall'UGL, mentre dalle 15 di oggi pomeriggio, poi ne parleremo, sono riuniti a porte chiuse a Fiumicino i rappresentanti dei sindacati che non hanno firmato l'accordo: ANPAC, UP, Avia, ANPAV e Sindacato dei lavoratori, ossia le sigle appunto che venerdì scorso non hanno firmato l'accordo. Si sta continuando questa tendenza sul mercato interbancario di ridimensionamento della pressione, appunto tassi ancora in calo, l'Euribor a tre mesi sull'euro, cioè quello che le banche si applicano fra di loro sui prestiti trimestrali, è sceso oggi ai minimi dallo scorso 1 aprile, segnando 4,73% dal 4,76% di venerdì. Però intanto le banche continuano a chiedere soccorso ai rispettivi governi. Oggi è stata la volta di molto attivismo sul fronte tedesco. Commerzbank, il secondo istituto di credito della Germania, otterrà dal governo un'iniezione di capitali di 8,2 miliardi di euro. Lo ha annunciato oggi la stessa banca in un comunicato. La banca ha chiuso il trimestre con una perdita netta di 285 milioni contro l'utile di 339 dello stesso periodo dello scorso anno. La banca ha fatto sapere che ricorrerà al fondo statale che complessivamente mette a disposizione del sistema bancario tedesco 500 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di rafforzare il proprio capitale di base. Ma oggi anche una banca regionale tedesca controllata dallo Stato, HSH Nordbank, ovviamente non lo dico in tedesco perché insomma è abbastanza improbabile la mia pronuncia, attingerà ai fondi pubblici messi a disposizione appunto anche in questo caso dal governo per un ammontare di 30 miliardi di euro. Anche in questo caso l'annuncio è stato dato dalla banca insieme alla previsione di una perdita di 360 milioni per i 9 mesi conclusi a fine settembre. E le iniziative non sono finite qua, perché lo Stato austriaco ha fatto sapere di aver rilevato il 99,78% della Communal Credit Austria, una banca specializzata nel finanziamento agli enti locali. Questa è la prima nazionalizzazione bancaria in Austria nell'ambito delle misure adottate anche in questa nazione per far fronte alla crisi finanziaria. Ma la cosa, chiamiamola così, divertente, è che lo Stato ha acquistato per 2 euro il 50,8% detenuto dall'austriaca Volksbank e il 49% facente capo al gruppo franco-belga Dexia. Si fa più salato il conto che la banca britannica HBOS, la prima banca ipotecaria della Gran Bretagna, deve pagare alla crisi del credito. Le svalutazioni di attivi in rosso, sommate ai crediti incagliati, hanno raggiunto i 5,2 miliardi di sterline, quindi si tratta di 6 miliardi e mezzo di euro complessivi da inizio anno. E quindi praticamente l'aumento di svalutazioni è stato pari a 2,7 miliardi soltanto nel terzo trimestre. Société Générale ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in calo dell'83% a 183 milioni di euro a causa di importanti accantonamenti e svalutazioni della sua attività di banca di investimento e finanziamento. Il nostro bollettino di guerra, almeno per oggi, è finito, ma è finita anche la festa a Wall Street, non solo in senso metaforico, almeno per quanto riguarda Morgan Stanley, la banca di investimento newyorkese, una delle poche rimaste in piedi dopo la crisi del credito, ha cancellato tutti i party e gli altri festeggiamenti per i dipendenti e le loro famiglie che erano stati organizzati in vista del Natale. Oggi lo ha fatto sapere il New York Post citando un messaggio interno distribuito fra i dipendenti. Il tesoro americano per ora dice no a General Motors, che ha chiesto 10 miliardi di dollari per facilitare una possibile fusione con Chrysler. Secondo indiscrezioni, le trattative fra GM e Chrysler proseguono, ma nessun accordo sarà raggiunto fino a quando il governo chiarirà quale e se vuole avere un ruolo in un eventuale matrimonio fra le due case automobilistiche. Circuit City, una delle principali catene di prodotti elettronici negli Stati Uniti, un altro test della difficilissima crisi dei consumi in America, ha annunciato la chiusura di 155 punti vendita in tutto il paese come parte di un programma di ristrutturazione per contenere i costi, alla luce delle maggiori difficoltà nell'accedere a credito nuovo. Circuit City inoltre cercherà di rinegoziare i termini di molti dei contratti d'affitto per i suoi negozi. E il piano di tagli di 3.000 posti annunciato da Motorola la scorsa settimana riguarda anche il nostro paese, riguarda anche l'Italia, con una riduzione di organico totale di 400 persone derivante dalla dismissione delle attività del centro ricerca di Torino, tutti i 370 addetti, e dal ridimensionamento delle sedi di Milano e Roma, 30 addetti in meno. Oggi dagli Stati Uniti abbiamo avuto anche due dati economici, uno è stato migliore delle attese, un altro invece è stato piuttosto pesante. Quello pesante è stato l'indice ISM che monitora l'andamento del settore manifatturiero negli USA. A ottobre è nuovamente, letteralmente, tra l'altro, caduta 38,9 punti dai 43,5 di settembre, quindi già in settembre il dato era negativo perché era al di sotto dei 50 punti, una soglia che ovviamente indica proprio la divisione tra una situazione di recessione, una situazione di crescita economica. Al di sotto dei 50 punti siamo in contrazione economica e al di sotto di questo livello, a quanto pare, questo indicatore ci si trova ormai da qualche mese. Le previsioni erano per un calo, ma non per un calo così forte. C'è stata invece una buona notizia che è arrivato sul fronte della spesa edilizia negli Stati Uniti, che a settembre ha segnato un dato negativo, un calo dello 0,3%, però le attese erano per un calo più forte, meno 0,8%, quindi almeno questa è stata oggi una buona notizia. Andiamo ai dati invece che sono stati comunicati oggi dalla Commissione europea, che commenteremo poi anche tra l'altro tra qualche istante. Allora, cosa ha fatto oggi la Commissione europea? Ha tagliato drasticamente le stime sul prodotto interno lordo di Eurolandia, che secondo le nuove previsioni nel 2009 si attesterà allo 0,1%, vicino alla stagnazione contro la precedente previsione di una crescita dell'1,5%. Nel 2010 è prevista una leggera ripresa allo 0,9%. Oggi per l'Europa la recessione è un rischio concreto, lo ha detto il commissario europeo per gli affari economici e monetari Joaquín Almunia presentando le previsioni d'autunno. The balance of risks regarding growth. I rischi per la crescita economica sono chiaramente al ribasso e il rischio maggiore è rappresentato dall'attuale crisi finanziaria. Non possiamo escludere né la possibilità che possano aumentare ulteriormente le tensioni finanziarie su alcuni mercati e nemmeno che la debolezza dell'economia comporti altre difficoltà per il settore finanziario. L'orizzonte che emerge da queste ultime previsioni è cupo. La recessione è un rischio concreto per alcuni paesi, per la zona euro e per l'intera UE. Questo rischio di recessione è la ragione principale che ci spinge all'azione. Oggi e domani l'Eurogruppo e l'Ecofin discuteranno della situazione attuale e delle linee di azione. Incoraggio i ministri dell'economia dei diversi Stati membri ad adottare una posizione chiara, perché sono convinto che serva un'azione comune per aiutare la ripresa. Un'azione a livello nazionale è necessaria e risulta ancora più efficace se è coordinata per raggiungere un obiettivo comune. E questo è il quadro generale fornito oggi dal commissario europeo Joaquín Almunia. Poi vi daremo qualche dettaglio in più anche rispetto alle previsioni per il nostro paese, alle previsioni per quello che riguarda l'inflazione. Comunque la crisi c'è, poi chiamiamola stagnazione, chiamiamola recessione, c'è differenza fra i due termini naturalmente, però abbiamo visto anche come effettivamente il confine sia molto labile e in questa fase naturalmente ci sia anche il pericolo che venga varcato e anche in fretta. Grazie e saluto di essere con noi il professor Pietro Busetta, docente di statistica economica all'Università di Palermo, presidente della Fondazione Curella e dunque la fondazione che sta organizzando in questi giorni le giornate dell'economia del mezzogiorno a Palermo. Sono iniziate oggi, si concluderanno l'8 novembre. Professor Busetta, buonasera. Buonasera a voi. Allora, tra l'altro è proprio lì a Palermo, è già iniziata oggi la manifestazione. Con che cosa, professore? Con quale iniziativa avete in programma una serie di incontri e convegni? Parlerete ovviamente della crisi finanziaria a 360 gradi. Oggi con che cosa avete iniziato? Abbiamo iniziato con un incontro su economia e felicità. Abbiamo avuto Luigino Bruni della Bicocca, il professor Porta che è dell'Università di Milano, poi il Cosenza che è della Sapienza di Roma, e si è fatto questa riflessione su economia e felicità in un momento in cui evidentemente le problematiche, come si sentiva dal rapporto precedente, sono estremamente complesse. Avete trovato degli spunti ai quali ci si possa aggrappare in una fase difficile come questa per trovare appunto, come dire, spazi di felicità in economia? In questo momento paradossalmente c'è qualcuno che si avvantaggia indubbiamente di una situazione come questa, i fondi speculativi, ma insomma ne abbiamo parlato più volte. Qual è l'aspetto rilevante di un connubio come questo, professore? Una riflessione che evidentemente questi paesi industrializzati, l'Occidente del mondo, la realtà industrializzata, contemporaneamente ha avuto tassi di crescita del PIL estremamente interessanti e magari ha un tasso di obesità particolarmente rilevante, l'uso di antidepressivi, quindi probabilmente c'è da riflettere sul fatto che la crescita sia soltanto e debba essere soltanto quella del reddito, perché al di là di una perché l'obiettivo di fondo di ognuno di noi, di ciascun uomo, è cercare di arrivare ad un equilibrio fisico rilevante, e gli Stati Uniti d'America nella loro Costituzione mettono che ogni uomo ha diritto a perseguire la felicità. Noi europei abbiamo forse, noi più di origine cattolica, abbiamo maggiore difficoltà a parlare di felicità, quasi che la felicità nascondesse un egoismo, e invece probabilmente la felicità anche noi dobbiamo perseguirla, o perlomeno un equilibrio anche in questa terra, piuttosto che sperarla soltanto per il dopo. Beh, siete stati coraggiosi insomma come convegno inaugurale, no? Inaugurale dell'inaugurazione della vostra manifestazione, professore. Assolutamente, in un momento come questo è necessario cominciare a pensare in modo diverso. C'è un pensiero verticale e un pensiero orizzontale. Il pensiero verticale è quello logico e conseguenziale, quello che prevede per l'uovo di Colombo di metterlo insieme cercando un baricentro impossibile. Quello orizzontale invece è quello che lo schiaffa e lo fa stare in piedi in questo modo. Io credo che la crisi è un momento estremamente importante per ripensare ai modelli di sviluppo, perché tanti abbiamo detto che non era giusto che il 20% della popolazione mondiale si distribuisse l'80% delle risorse. Ecco, i nuovi entranti stanno prendendosi risorse che prima non avevano, perché è vero se le previsioni per l'Europa sono assolutamente tristi, non lo sono altrettanto per esempio per la Cina. Il Fondo Monetario Internazionale qualche giorno fa, dopo la crisi, ha fatto le previsioni della Cina e parlava di un 9% di incremento di PIL, così come parlava del 6% per l'India e del 6% della Russia. Quindi in realtà cosa sta accadendo? E per il mondo le previsioni sono di una crescita del 3%, probabilmente saranno riguardate, probabilmente ci sarà, rispetto a queste previsioni ci sarà un ribasso, però in verità c'è un spostamento di ricchezza di reddito da alcuni paesi ad altri. In questa logica, a mio parere, anche l'Italia può ripensare al suo modello di sviluppo, perché non può non prevedere che questa è una piattaforma logistica che si pone verso la Scindia e che quindi questa deve utilizzare, non può non ripensare di utilizzare le risorse che ha, che sono quelle del capitale umano e dei territori anche del Mezzogiorno, non può che seguire la strada intrapresa dalla Germania, che rispetto alla DDR ha completato un percorso di sviluppo e di eliminazione dei divari che invece noi ancora continuiamo ad avere estremamente forti. Professore, no, tra l'altro stavo riflettendo sul fatto, adesso avevo di fronte a me il monitor di una TV appunto che abbiamo qui in studio, vedo su Sky TG24 un comizio di Barack Obama, ed è il suo grande tema anche di questa campagna elettorale americana, no? Quello della redistribuzione della ricchezza. Allora, adesso facendo questo salto pindarico che dagli Stati Uniti ci riporta nel nostro paese, ritorniamo al modello italiano che lei vede di distribuzione della ricchezza. Ovviamente queste giornate dell'economia si svolgono a Palermo, voi concentrate la vostra attenzione proprio nel Mezzogiorno. Come sta risentendo il Mezzogiorno di questa crisi finanziaria ed economica che ha degli effetti dirompenti, clamorosi, preoccupanti, ogni giorno nuovi, professor Busetta? Come è logico aspettarsi, tutte le realtà che sono meno sensibili, che sono meno internazionalizzate, il Mezzogiorno è una di queste, reagiscono con un lag temporale di qualche mese certamente, quindi la crisi nel Mezzogiorno a mio parere arriverà pesantemente fra qualche tempo e arriverà con la problematica dell'economia reale piuttosto che con quella dell'economia finanziaria, che ha creato alcuni problemi, ma certamente arriverà con il fatto che sarà difficile per le aziende riuscire ad ottenere credito, soprattutto considerato che l'80% delle aziende esistenti nel Mezzogiorno sono al di sotto degli 80.000 euro in termini di affidamento e sono proprio quelle che vengono tagliate prima dalla concessione, perché sono le più rischiose, perché sono quelle che danno più problemi nella gestione, e quindi questi problemi certamente in un'area debole come quella del Mezzogiorno, nella quale ancora lavora una persona su quattro, non ce lo dimentichiamo, rispetto a quasi una su due che lavora nel centro-nord, e chiaramente avrà molti problemi. Non dimentichiamo che laddove si perde un lavoro nel Mezzogiorno lo perde il capofamiglia dell'unico lavoro che c'è a casa, ma al di là di questo, perché noi non dobbiamo pensare quasi da San Francesco di aiutare alcune realtà, il problema di fondo è il paese deve capire invece che se non utilizza al meglio tutte le realtà esistenti, tutte le opportunità, e questa della piattaforma logistica nel Mediterraneo è certamente un'opportunità importante, non potrà riavere quei tassi di crescita che ha avuto negli anni passati e non potrà sedersi tra gli otto grandi, tra i sette grandi del mondo. Quindi la Germania ha completato il suo processo di unificazione sia in termini infrastrutturali che in termini di produzione di PIL da parte dell'est europeo, dell'ex DDR. Mm-hmm. Ecco, anche noi dobbiamo cercare di pensare in grande, di pensare in modo diverso. Insomma, noi non abbiamo un muro di Berlino da abbattere, ne abbiamo però di altra natura. Professor Busetta, questo convegno di quest'anno, tra l'altro voi presentate ogni anno un osservatorio economico congiunturale, quello della Fondazione Curella, però le giornate dell'economia sono la vostra prima iniziativa. Sì, è la prima volta, e fra l'altro vi sono una serie di partecipanti di grandissimo livello, perché vi è la partecipazione dell'Ocse, vi è l'Istat che partecipa, ma vi è il Sole 24 Ore che come negli altri 22 anni ci supporta, ma vi sono una serie di strutture meridionali importanti come la Svimez per esempio, che farà un incontro venerdì prossimo sul federalismo fiscale, peraltro vi sono incontri ogni giorno in appaiamento, cioè non oggi pomeriggio per esempio c'è la Mercury di Firenze che parla di turismo, c'è una relazione fatta alla Casa Comunale in cui si parla di Germania Italia 4-0, proprio per questo con un termine calcistico, e poi vi è la Fondazione Chinnici che è quello Pia La Torre che fanno un'altra un conto su, proprio sulla macchina. Ecco, esatto, è lì che volevo arrivare, per questo le ho fatto rimarcare il fatto che fosse la vostra prima iniziativa proprio di natura completamente pubblica, perché questo 2008 probabilmente, per quello che riguarda appunto la Confindustria Sicilia, rimarrà evidentemente l'anno segnato da una decisione molto importante, quella di espellere dall'associazione gli imprenditori che pagano il pizzo. Parlerete anche di questo, professor Busetta? Il fatto di aver coinvolto la fondazione Chinnici e la fondazione Pio La Torre la dice lunga sull'esigenza che la legalità sia uno dei temi fondamentali del nostro percorso di sviluppo. Evidentemente continuiamo a mettere in evidenza però che i meridionali e i palermitani hanno fatto su questo, hanno cercato di sbracciarsi. Noi, i nostri eroi, i Falcone, i Borsellino, sono tutti palermitani. Pio La Torre e palermitano, ecco, voglio dire, c'è stato e continua adesso con la società civile, con gli imprenditori che si stanno mettendo in un indirizzo importante. Il sacrificio di Libero Grassi ha portato, quindi io credo che questo sia un percorso che si stia completando, cioè vi sono stati prima gli eroi, adesso è la società civile tutta, gli imprenditori per primi, che si sono resi conto che con la mafia non si convive, che il costo della mafia non è più tollerabile, che queste realtà devono essere liberate, queste siciliane, ma anche quella napoletana dalla camorra, in modo tale da dare il contributo che possono dare, che in altri tempi hanno dato, alla crescita di tutto il paese. Professor Busetta, un'ultima domanda: abbiamo visto che i temi che toccherete sono assolutamente molti, a 360 gradi, diciamo, insomma, un interesse che riguarda tutti gli aspetti dell'economia, si va dalle questioni internazionali che ci premono molto in questo momento, fino naturalmente alle situazioni invece particolari che riguardano le peculiarità della nostra economia, quella italiana, e poi tutto ciò che invece accade al sud. Mi chiedo quale vorrebbe che fosse il messaggio conclusivo di questa iniziativa che avete intrapreso quest'anno, e che senso, che spirito hanno queste manifestazioni. Noi abbiamo definito all'inizio un po' la risposta del sud al Festival dell'Economia che ogni anno si svolge a Trento da qualche anno a questa parte. È davvero una risposta, un richiamare l'attenzione verso il Mezzogiorno di nuovo, semmai ci fosse ancora bisogno di doverlo fare, professor Busetta? Ma certamente, noi riteniamo che il Mezzogiorno ha tante cose da dire, spesso non ha voce, e questa è un'occasione per dare voce a una società civile che è cresciuta, che vuole sbracciarsi, che vuole fare la propria parte fino in fondo, ma tenendo presente che il problema del Mezzogiorno non è un problema dei meridionali, è un problema che riguarda il paese, perché senza il Mezzogiorno questo paese non va a regime. Grazie a Pietro Busetta, docente di statistica economica all'Università di Palermo, presidente della Fondazione Curella, che organizza da oggi fino all'8 novembre le giornate dell'economia del Mezzogiorno. Buon lavoro, professore, arrivederci. Grazie a voi di avermi chiamato, grazie molto a tutti. Fra un po' sentiremo cosa succede a Fiumicino, ma intanto abbiamo appreso che si sta incrinando il fronte del no dei sindacati autonomi che non hanno aderito al piano di salvataggio di Alitalia. L'associazione degli assistenti di volo ANPAV avrebbe lasciato l'assemblea convocata dalle sigle autonome che non hanno sottoscritto l'accordo con CAI sui contratti e criteri di assunzione per l'impossibilità, si legge in una nota, di manifestare le proprie ragioni a fronte di una contestazione sicuramente precedentemente organizzata, che non ha permesso di esprimere la propria posizione. Anzi, questo non è un comunicato, è quanto ha dichiarato il presidente dell'associazione Massimo Muccioli, parlando di un vero e proprio agguato predisposto dai compagni e amici della cordata del Nod. Più tardi, fra qualche minuto anzi, ci collegheremo con Vincenzo Miglietta, che sta seguendo appunto questa sorta di assemblea globale appunto delle sigle dei sindacati autonomi. Intanto andiamo a vedere invece cosa è successo in questa giornata di borsa. L'Europa chiude positiva, non abbiamo ancora ovviamente le variazioni percentuali definitive di tutti gli indici, ma c'è stato un colpo di coda finale per gran parte degli indicatori europei. Parigi più 1,17, Francoforte più 0,78, Londra più 0,55. Per la verità la giornata era partita bene, poi dopo la divulgazione delle stime di crescita per l'Eurozona riviste al ribasso dalla Commissione europea, l'Europa ha rallentato, anche Wall Street non ha aiutato molto in una certa fase, adesso anche Wall Street è un po' più decise. In territorio positivo con il Dow Jones in rialzo dello 0,27%, il Nasdaq dello 0,53%, Milano più 1,12% per l'S&P MIB sul finale. Buonasera al collega di Radio Cor, il Sole 24 Ore, Paolo Paronetto. Buonasera a tutti. Ci siamo preparati un bel po' di argomenti oggi da raccontare, però Paolo, dobbiamo partire da questo colpo di coda, così possiamo proprio definirlo, di Mediaset, che mette a segno un rialzo dell'11,50. Che cosa è successo improvvisamente? Esattamente, questo balzo di Mediaset è avvenuto proprio nell'asta di chiusura, perché fino ad allora il titolo, fino all'ultimo scambio della negoziazione continua, vantava un progresso del 6%, cioè in linea con i migliori del listino, ma senza svettare in questo modo. Non c'è nessuna notizia particolare segnalata durante la giornata dalle sale operative. Certo, il titolo ha beneficiato della giornata di recupero dell'intero comparto media, a livello europeo guadagna quasi il 2%, ma evidentemente c'è stato questo ordine in acquisto che è stato eseguito sul finale, che ha fatto balzare il titolo a 4,73 euro, quindi un rialzo dell'11,5% rispetto alla chiusura di venerdì. Finmeccanica, secondo miglior titolo della giornata, anche in questo caso un rialzo piuttosto interessante, più 7,79%. Paolo? Certo, Finmeccanica oggi è stata la prima giornata di scambi senza i diritti legati all'aumento di capitale. Il titolo quindi ha recuperato parte del terreno perso da quando, cioè dal 15 ottobre, il CDA ha comunicato i dettagli dell'operazione di ricapitalizzazione. Da allora fino al 27 ottobre il titolo aveva perso quasi il 30%. Ricordiamo Paolo che questa ricapitalizzazione è stata necessaria per una grande acquisizione americana. Sì. Per acquistare la società statunitense DRS Technologies, esattamente. E quindi dopo il lancio dell'aumento il mercato aveva cominciato a vendere i titoli Finmeccanica comprando i diritti che valevano 8 euro, quindi molto meno a sconto rispetto al valore di borsa del titolo. E il titolo quindi era sceso allineandosi più o meno a questi valori e da oggi però torna in contrattazione senza i diritti e quindi ha beneficiato di un recupero del 7,79% e di nuovo sopra i 10 euro, ha chiuso a 10,29. Non c'è stata una tendenza omogenea in Europa oggi, non c'è stato un settore che è andato particolarmente bene rispetto ad altri, anche Piazza Affari abbiamo visto appunto sul finale hanno svettato titoli appartenenti a comparti diversi. Infatti dopo Mediaset e Finmeccanica c'è stato oggi il rialzo del 7,71% di Fondiaria. Sì, è stato il miglior titolo del settore finanziario. La società ha beneficiato delle indicazioni fornite dall'amministratore delegato Fausto Marchionni al Sole 24 Ore, pubblicati ieri. Marchionni ha ammesso che il 2009 sarà un anno difficile, ma si è mostrato fiduciosa sulla capacità della società di mantenere le proprie posizioni, in particolare di salvaguardare il proprio bilancio e il valore di combined ratio a bilancio, che secondo Marchionni resterà a livello di eccellenza, quindi tra i migliori del comparto assicurativo. Le quotazioni quindi hanno beneficiato di queste rassicurazioni, hanno guadagnato il 7,71% a 15,74 euro. Rialzi di oltre il 7% anche per Fastweb oggi e anche per Pirelli, più 6,70 per l'Espresso, Autogrill più 6,22, Tenaris più 5,94. Magari possiamo raccontare anche di Lottomatica più 5,72%, che abbia ottenuto un importante contratto con la controllata americana G-Tech. Esattamente, l'Automatica ha proprio accelerato il passo quando è stata comunicata la notizia che la controllata statunitense G-Tech ha siglato un accordo con la lotteria dello Stato dell'Oregon, quindi negli Stati Uniti, per un contratto quinquennale per la fornitura di 2500 terminali per videolotterie, un contratto da cui G-Tech prevede di ottenere ricavi per 30 milioni di dollari, quindi ovviamente la controllante italiana ne ha beneficiato, ha chiuso un rialzo di quasi 6% a 19,28 euro. Saipem più 5,70, A2A più 4,84, Alleanza Assicurazioni più 4,21, STM più 4,11, Mediolanum più 3,45%, abbiamo poi Impregilo più 3,36, andiamo su Enel, che ha chiuso con un rialzo del 2,39%, in 2008 migliore delle attese per il gruppo? Sì, probabilmente il mercato specula su questa attesa di andamento delle dichiarazioni fornite dall'amministratore delegato Fulvio Conti, che in mattinata ha fatto sapere che i conti del 2008 proprio saranno migliori delle attese e ha confermato un dividendo di almeno 49 centesimi per azione. Quindi il titolo è scattato in positivo fin dalle prime battute e ha guadagnato in chiusura il 2,39%, chiudendo a 5,34%. 4 euro. Tra l'altro l'amministratore delegato Fulvio Conti ha detto anche una cosa importante che forse magari avrà rassicurato anche chi temeva un'eventualità di questo tipo: non vedo rischi di scalata, ha detto appunto Fulvio Conti. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Stavamo esaminando i casi di borsa di questa giornata, abbiamo praticamente analizzato le migliori storie di oggi. Andiamo invece a chi si è comportato male. Peggior titolo: UbiBanca meno 2,51, Terna meno 2,46, Unipol meno 2,10. Vedo tra l'altro Unicredito che sul finale perde un punto e mezzo quasi. In giornata era andata molto meglio, il titolo aveva agganciato e anzi superato abbondantemente 1,90 euro, una soglia che non vedeva da un po'. Chiude a 1,86 euro. Andrei però a Telecom, Paolo, meno 0,89%. Sì, oggi il titolo è sceso dello 0,9, quindi sentendo della debolezza generale del comparto, che nonostante alcune notizie positive, parleremo dopo di Tiscali, oggi a livello europeo ha chiuso in calo dello 0,8%. In particolare dalle sale operative si segnala che si è un po' spenta la speculazione che nelle ultime settimane aveva sostenuto il titolo Telecom sul possibile ingresso di investitori arabi nel capitale. Secondo fonti di mercato, infatti, un'operazione che si era parlato di un possibile aumento di capitale riservato a un investitore arabo è reso difficile dall'attuale livello dei corsi di borsa, che a questi prezzi insomma rendono difficile la definizione di un prezzo di ingresso per nuovi investitori. La speculazione si è quindi un po' spenta e quindi evidentemente gli investitori che avevano puntato su questo fattore hanno iniziato ad alleggerire le posizioni. Il titolo ha perso lo 0,89%, chiudendo a 0,88 euro. E rimaniamo nel settore in senso molto lato, generale insomma, delle telecomunicazioni, tecnologia. Tiscali più 40,91% sul finale, Paolo. Certo, Tiscali oggi è stato sicuramente il protagonista della seduta, il titolo ha guadagnato, come dicevi tu, oltre il 40% e ha chiuso a 0,95 euro. Ovviamente la notizia principale, quella è stata confermata ufficialmente dalla società, e cioè che sono in corso contatti con il gruppo Biscay B di Rupert Murdoch per la cessione degli asset britannici dell'internet service provider sardo. È una trattativa questa della cessione degli asset britannici che è in corso e che comunque ne parla da molto tempo. Secondo indiscrezioni circolate sulla stampa britannica, Biscay B avrebbe presentato un'offerta di 450 milioni di sterline, quindi il mercato ha preso la notizia di contatti ufficiali in corso e scommette su una possibile chiusura della trattativa, e oggi ha premiato il titolo con questo balzo di oltre il 40%. C'è stata oggi invece una serie di prese di beneficio sul settore del cemento, ha riguardato anche tutto il resto d'Europa o solo i titoli di Piazza Affari, tipo Italcementi e Buzzi, Paolo? Sì, è vero, i titoli erano alcuni tra quelli che non si erano comportati meglio nelle ultime settimane. A livello europeo, a dire la verità, il comparto costruzioni ha guadagnato quasi un punto percentuale, ma ad esempio un colosso come Holcim Azzurri ha perso anche lui il 2,89%, quindi possiamo dire che è un movimento comune ai principali big del comparto. In particolare Italcementi, che oggi a Piazza Affari ha perso lo 0,66%, ha risentito della notizia che è stata diffusa venerdì a mercato chiuso, cioè che non sono andate a buon fine le trattative per la cessione degli asset turchi della controllata francese Saman Français, che al termine della scadenza della trattativa non ha trovato un accordo con i compratori, con i possibili compratori turchi, e quindi ha rinviato o comunque al momento archiviato la cessione degli asset. Paolo, ti ringrazio molto per essere stato con noi, ti lasciamo, adesso invece andiamo a sentire un po' che cosa succede ancora una volta sul fronte all'Italia. Non sta prendendo una bella piega la riunione, la super assemblea di molte sigle dei sindacati autonomi, appunto, che si sono riuniti oggi a Fiumicino per valutare lo stato dell'arte dopo i disappunti di nuovo rimarcati, emersi nel corso del fine settimana scorso tra appunto le sigle sindacali e in particolar modo fra quelle che non hanno sottoscritto l'accordo con CAI, la compagnia aerea italiana, sui contratti e criteri di assunzione. È una settimana importante per l'Italia questa, perché il commissario straordinario Augusto Fantozzi comincerà l'esame dell'offerta della compagnia aerea italiana, che invece è stata sottoscritta dai sindacati confederali e dall'UGL. Vincenzo Miglietta da Fiumicino, buonasera, che cosa succede, a che punto è la situazione? Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. L'assemblea, come dicevi, da studio è a dir poco infuocata, c'è una sorta di tutti contro tutti. Tendenzialmente il personale di terra sarebbe, con le opportune modifiche al piano CAI, per accettare alla fine la proposta della compagnia aerea italiana. Fronte compatto invece del no, rappresentato dai piloti ed assistenti di volo. E allora ascoltiamo le ragioni proprio del no da un assistente di volo. Ascoltiamo. Il fatto di non sapere mai la verità è una cosa che sta logorando a tutti quanti, perché poi la cosa più utile sarebbe quella dell'unità sindacale di tutti i lavoratori, ma è sempre difficile perché poi ogni categoria ha i suoi interessi, ma comunque ha le sue necessità, le proprie necessità, e parliamo comunque di tanti aspetti contrattuali così diversi che non è neanche possibile, insomma, poter uniformare un po' tutto ciò che riguarda la parte contrattuale. E poi certo, la vicenda all'Italia è solamente uno spunto per ciò che succederà in tutto il paese. Siamo così in attesa e cerchiamo di capire il più possibile per avere un'idea, insomma, su come poi affrontare con maggiore serenità questa cosa, anche se serenità non c'è, perché poi comunque si lavora ogni giorno, si lavora con mancanza di personale, si lavora con una serie di difficoltà operative, perché poi chiaramente l'attività giustamente deve andare avanti, insomma non è di certo una cosa piacevole. Queste dunque le ragioni del no, ma l'assemblea è infuocata proprio perché c'è una parte, come dicevamo, di lavoratori che vorrebbe alla fine accettare il piano CAI con le opportune modifiche, soprattutto, dicevamo, tra il personale di terra. Ascoltiamo allora uno di questi lavoratori. Io personalmente penso che sia una cosa, non condivido pienamente sia i piloti, tutto quello che stanno facendo, perché più si va avanti e più si va peggio. Non condivido pienamente quello che stanno facendo, perché qua non li condivido. Tutto qua. Ecco, la riunione di oggi quindi vede anche personale di terra? Certo. Sì, anche personale di terra, però non tutto il personale di terra, anzi, la maggior parte non condivide quello che stanno facendo loro, perché noi siamo la parte che subirà più torti confronto a loro, e stiamo vedendo che prendiamo 1.500 al mese dopo 30 anni che stavo qua in servizio. Perciò io credo che noi abbiamo accettato, il sindacato ha accettato, questi stanno facendo casino, più si va avanti più si peggiora la cosa, secondo quello che penso io. Vincenzo, dunque, che cosa si può ragionevolmente prevedere per questa serata? Si va avanti ad oltranza oppure si attende, bene o male, insomma, una chiusura dell'assemblea di oggi con qualche decisione che a questo punto non potrà assolutamente essere unitaria? Cosa può succedere? Ecco, visto il clima decisamente caldo, io temo che si possa andare per un ulteriore dilazionamento dei tempi. Probabilmente vi potrebbe essere una spaccatura sul fronte sindacale con le associazioni, lo sappiamo tutte, più forti, piloti, assistenti di volo, che continueranno a fare il loro braccio di ferro con la CAI. Probabilmente il personale di terra, che è l'anello un po' più debole della catena, potrebbe nei prossimi giorni arrivare ad un'intesa con Sabelli, con Colaninno, quindi con i vertici della compagnia aerea italiana. Grazie, grazie Vincenzo Miglietta. Peraltro Vincenzo, Roberto Colaninno è nella missione, appunto, che è stata organizzata da Confindustria, ABI e ICE in Vietnam, della quale parleremo nella seconda parte della trasmissione, e probabilmente, anche se forse se lo immaginava anche, non sarà per niente contento rispetto a queste notizie che da Roma stanno maturando in queste ore. Intanto abbiamo appreso anche che alcuni dipendenti dell'Alitalia che si sono riuniti in assemblea a oggi nello scalo palermitano Falcone Borsellino hanno bloccato i check-in alla protesta, anche in questo caso contro il piano annunciato da CAI che prevede il licenziamento di circa 100 dei 160 dipendenti di Palermo. E 10, ancora ben ritrovati da Deborah Rosciani a Focus Economia, la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo già raccontato della seduta di borsa positiva in Europa, abbastanza positiva in questo momento anche a Wall Street, in un mercato che naturalmente attende trepidante l'esito delle elezioni americane. Sapremo insomma in quale direzione politica prenderà l'America mercoledì, e poi in Europa attesa per il meeting di giovedì della Banca Centrale Europea. Oggi abbiamo avuto una giornata fitta di notizie, abbiamo avuto la revisione delle stime di crescita per quello che riguarda l'Eurozona e l'Italia, naturalmente, che sono state formulate dalla Commissione europea, una zona che naturalmente è in forte frenata. Abbiamo per le principali economie dell'Eurozona una recessione tecnica per il 2009, abbiamo 8 paesi in presumibile stagnazione, 5 in recessione. Per l'Italia è prevista, almeno magra consolazione, la stagnazione, quindi crescita zero per quest'anno e per l'anno prossimo. In tutto questo abbiamo ovviamente, anche per questa congiuntura difficilissima, un mercato dell'auto che, altro che se stagna, scende pesantemente, e in ottobre segna un calo delle vendite, delle immatricolazioni del 18,9%. Buonasera a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Deborah Roscian. Tutto come nelle previsioni o è andata un po' peggio del previsto, Gianprimo? Se devo essere sincero, forse è andato un pochino meglio, anche se può sembrare strano dato il calo così pesante. Un pochino meglio perché il quadro era già molto difficile a settembre, poi si è inserito il crollo di fiducia che ha fatto seguito alle vicende di Lehman Brothers e a tutto quello che ne è seguito, e di conseguenza era scontato che vi sarebbe stato un calo pesante. D'altra parte non si vede a brevissimo come questa situazione possa risolversi, sia per quanto riguarda i fattori specifici che incidono sul mercato, sulla domanda di automobili, sia il quadro generale che in questo momento appare quanto mai precario. Tra l'altro questo meno 18,9% proprio oggi si confronta con il dato sulle vendite in Francia e il dato sulle vendite in Spagna, che sono molto differenti, perché in ottobre il calo del mercato dell'auto francese è del 7,3%, ma in Spagna c'è stato un autentico crollo del 40%, e praticamente ottobre ha replicato pressoché in maniera invariata quello che è accaduto in settembre e quello che è accaduto in agosto, per cui insomma in Spagna si registra davvero l'aria della recessione. Qua almeno, pur con perdite a due cifre, ci possiamo quantomeno accontentare. Come è andata alle case automobilistiche, Gianprimo? Beh, alle case automobilistiche direi che sono pochissime quelle che si salvano, perché considerando i marchi che fanno volumi abbastanza importanti, abbiamo che l'Audi cresce del 17,18% ed è un dato in controtendenza molto positivo, Nissan cresce del 9,63%, Lancia cala soltanto dello 0,69%, Alfa Romeo cala del 5,80%, Ford cala del 9,32%, BMW cala del 13,42%, Mercedes del 13,52%, Fiat del 15,74%. Però aumenta la quota di mercato, vedo, su un anno. Aumenta la quota di mercato, sì, perché ovviamente il calo complessivo è del 18,89%, quindi se cala del 15,74%, il gruppo, il Fiat in come marchio, aumenta in quota di mercato. Poi gli altri due marchi, Alfa Romeo e Lancia, hanno cali molto più contenuti, per cui il gruppo Fiat in ottobre va al 32,82% contro il 30,64% di ottobre dell'anno scorso. E vedremo il mercato azionario come reagirà domattina dopo questi dati, se preferirà guardare al calo delle vendite o all'incremento delle quote di mercato. Grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, che sentiremo anche più avanti nel corso dei nostri giornali radio, per tornare ad indicarci appunto com'è andata dal punto di vista delle vendite il mese di ottobre nel settore auto. Eccoci ritrovati a Focus Economia. Prende il via domani ad Hanoi, in Vietnam, la 22esima missione organizzata da ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Confindustria e l'ICE, l'Industria per il Commercio, l'Istituto per il Commercio Estero, con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Assolombarda e Club dei 15, che durerà fino a venerdì 7 novembre. Obiettivo della missione è quello di approfondire le opportunità economiche e commerciali offerte dal Vietnam. Stiamo parlando di un paese che è collocato nell'area più dinamica del mondo, il sud-est asiatico. Il Vietnam rappresenta un mercato strategico con 85 milioni di abitanti, di cui oltre la metà con meno di 30 anni. Alla missione partecipano 300 imprenditori, 160 aziende, 11 gruppi bancari italiani. Sono previsti circa 1700 incontri di business fra imprenditori italiani e 600 imprese vietnamite. L'iniziativa rientra nel progetto straordinario Made in Italy, per il quale l'Istituto per il Commercio Estero ha in programma iniziative di promozione sul mercato vietnamita con oltre 1 milione di euro. La missione guidata dal ministro ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, dal vicepresidente dell'Istituto per il Commercio Estero Umberto Vattani, dal presidente appunto che sentiremo più tardi, dal vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione Paolo Zegna e dal direttore centrale dell'ABI Domenico Santececca. I rapporti economici già in corso fra il nostro paese e il Vietnam e le potenzialità di sviluppo di quest'ultimo appunto ne abbiamo appena indicate, adesso le ragioni che hanno spinto a scegliere il Vietnam come meta della missione italiana ce le ha spiegate l'organizzatore di questa iniziativa, Paolo Zegna, lo dicevamo, vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione, intervistato da Sebastiano Barisoni. Il Vietnam è un paese molto giovane, con una percentuale di giovani altissima e quindi al di là di essere già oggi probabilmente un mercato che comincia a essere interessante con 80 milioni di potenziali consumatori, c'è da pensare che di questi effettivamente molti possono ambire i prodotti italiani mano a mano che crescono nell'età e hanno uno sviluppo economico come ci aspettiamo e come il paese ha già effettivamente dimostrato di poter raggiungere. Andiamo quindi a scoprirlo, a mettere un seme in anticipo probabilmente su tante altre delegazioni di altri paesi, quindi per una volta non siamo secondi a nessuno, è credo la più grande delegazione straniera che si presenta con un gruppo così nutrito di imprenditori, pensavamo in un'ottantina di aziende, invece ne abbiamo 160 e avremo quasi 300 imprenditori in rappresentanza un po' di tutti i settori. Andiamo anche a vedere la realtà produttiva che oggi si sta sviluppando molto velocemente, che può essere un domani anche un'alternativa alle alternative produttive che si sono andate in questi anni creando in Cina, sappiamo che addirittura ci sono delle aziende cinesi che si stanno trasferendo in Vietnam. Crediamo che al di là del costo del lavoro oggi più conveniente in Vietnam che in Cina ci sia una realtà industriale di dimensioni più ridotte, quindi anche più vicine forse nella filosofia a quello che è la realtà industriale delle nostre piccole e medie aziende che di fronte magari a colossi alle volte faticano a trovare degli interlocutori per propria espansione all'estero. Nella dimensione più limitata delle aziende vietnamite probabilmente sarà più facile trovare delle basi di accordi. Allora, proprio su questo vorrei soffermarmi, perché già lei ricordava come le imprese che hanno aderito siano il doppio rispetto a quelle che voi non vi attendeste, cioè da 80 a 160. Lei citava anche il fatto che in un paese come Vietnam è più facile forse per le imprese italiane andare in concorrenza perché non ci sono i colossi che troviamo per esempio in Cina o in India. Le chiedo, un vantaggio potrebbe anche arrivare dalle dimensioni del Vietnam, che è sì un grande paese, appunto 80 milioni di abitanti, ma è sicuramente un paese più abbordabile, più simile all'Italia come dimensioni geografiche e come dimensioni demografiche rispetto alla Cina. Sì, è quello che cercavo di dire prima, quindi non è tanto la non presenza di aziende grandi, multinazionali che hanno già investito in Vietnam, credo che sia proprio la realtà del tessuto industriale in Vietnam che è in sostanza più vicino alle caratteristiche italiane, quindi con più facile sintonia da crearsi fra le aziende nostre e le aziende loro. Potrebbe diventare il Vietnam un'alternativa tra virgolette alla Cina, per esempio molte imprese cinesi producono in Vietnam perché è più economico che produrre in Cina ormai, cioè la Vietnam è la Cina della Cina in alcuni casi, potrebbe essere un modo per non dico bypassare o saltare, perché è difficile saltare un paese come la Cina, però diciamo per aggredire in senso positivo l'Asia senza diciamo, affrontare tutte le difficoltà che la Cina comporta? Ma io credo di sì, ecco, direi che forse anche delle risposte a queste domande verranno dopo questa nostra missione e riusciremo più direttamente a capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi che le aziende vietnamite, il sistema vietnamita può avere nei confronti di quello cinese. Io non credo che sarà tutto facile, come non credo d'altra parte che nei confronti della Cina sia tutto difficile, però come dicevamo la dimensione più limitata può in un certo senso facilitarci, poi come ci sono delle difficoltà ad operare in Cina credo che ce ne saranno anche in Vietnam, però magari è più facile abbordarle, superarle ed arrivare a delle conclusioni complete, se non altro da un punto di vista psicologico. Ritengo anche pensando alla piccola e media azienda italiana pensare di approcciare il vietnamita sia in un certo senso meno spaventoso di quello che può essere andare a affrontare quel grande paese con tutto quello che in questi anni si è detto di buono e di male come la Cina. Il Vietnam fornente è più alla portata di tante piccole e medie aziende. Un'ultima domanda, dottor Zegna, sulla base dell'esperienza fatta già dalla giunta Montezemolo, dalla presidenza Montezemolo, le missioni in Cina, in India, in Turchia, voi avrete anche incontri, come si chiamano in gergo, B2B, business to business, cioè ognuno di questi 160 imprenditori incontrerà poi dei corrispettivi vietnamiti? Sì, direi che come al solito la parte poi più importante di queste missioni, che come novità abbiamo voluto rendere, e speriamo di riuscire già da questo primo tentativo, ancora più pragmatica e reale rispetto a quello che si è verificato nel passato. Quindi, a differenza di quello che mi risulta venisse per le aziende italiane, arrivavano sul posto e solo in quel momento riuscivano a capire con chi avrebbero avuto il contatto, abbiamo fatto un grande lavoro di preparazione, per cui già adesso sull'agenda degli imprenditori, quasi tutti gli imprenditori italiani, c'è indicata la lista degli operatori vietnamiti con i quali verranno messi in contatto, chi sono, cosa cercano, in modo che c'è una digestione, praticamente, se mi passa il termine, del potenziale incontro, e questo per rendere, come dicevo, più pragmatico il momento in cui si conosceranno fisicamente. Poi credo che tanta importanza dovrà essere data al follow up, cioè dopo che speriamo siano avvenuti questi incontri e siano scaturite tante scintille, buoni contatti, bisogna indubbiamente non abbandonare le aziende, ma ancora nel sistema di ICE sul posto, piuttosto delle ambasciate, piuttosto che anche eventualmente delle camere di commercio, trovare gli interlocutori che possono essere di reale appoggio agli imprenditori affinché il contatto si trasformi in una relazione commerciale più forte sulla quale poi l'imprenditore potrà proseguire da solo. Ma bisogna preparare meglio, e questo è l'obiettivo che siamo dati, gli incontri, fare in modo che si svolgano in maniera più proattiva e seguire affinché il massimo di essi porti effettivamente a un consolidamento di relazioni tra gli operatori. E dopo Paolo Zegna, al microfono di Sebastiano Barisoni, anche Umberto Vattani, presidente dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, intervistato dalla nostra inviata Paola Anania, ha spiegato le ragioni alla base della scelta del Vietnam come destinazione della missione imprenditoriale. Da 20 anni a questa parte ha avviato una politica di rinnovamento economico e che ha trasformato in maniera notevole il paese. Certo, mancano ancora alcuni aspetti che dovranno essere sviluppati ulteriormente, come le infrastrutture, come un'elevazione del livello professionale della manodopera, ma dobbiamo riconoscere che il Vietnam in questi anni ha comunque raggiunto non soltanto un tasso di sviluppo elevato, ma anche ha saputo ridurre notevolmente quelle sacche di povertà che c'erano nel paese e migliorare il livello della salute, della cura della salute, così come estendere sempre di più il programma di istruzione alla propria popolazione. Per cui non ci sono in Vietnam quegli squilibri così forti che in certi paesi di via di sviluppo sono stati rappresentati soltanto dallo sviluppo rapidissimo dell'economia. Sono sorti negli ultimi anni alcuni distretti industriali, alcuni al nord e la maggior parte al sud, che in un certo senso fanno pensare a quel sistema economico fatto di tante piccole imprese, però capaci di lavorare insieme e di far fronte alla domanda internazionale in maniera competitiva e intelligente. Nel nord c'è per esempio un distretto per l'automotive e per i motocicli, per l'elettronica, per la logistica e per la cantieristica. Nel sud sono concentrate le principali produzioni agricole, dal caffè alle noci cashews, alla frutta, ai prodotti ittici, in generale prodotti come il riso, che fanno del Vietnam un paese esportatore abbastanza importante. E noi torneremo naturalmente anche domani sulla missione in Vietnam da parte di Confindustria, ABI e ICE. Intanto Focus Economia per questa sera termina qui. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, a Fabio Rudi Cantadori per l'assistenza tecnica. Focus Economia torna domani sera, noi invece ci sentiamo domani alle 12 a Salvadanaio. Da Deborah Rosciani, buonasera a tutti.